Che bello, è arrivato l'autunno. Apro il mio Postal Market e dentro nella moda. Entra nella moda con Postal Market. Chi si risente, chi si rivede, no? Chi si risente, sì. Oh. Buongiorno. Eccola. Buongiorno, come direbbe la nostra mascotte. Buongiorno, buongiorno a tutti, anzi buonasera. Siamo 19. No, che 19? 16, sì. Buona. Oppure volendo, visto che... Ma volevi dire la data o il numero della puntata? No, volevo dire la data, volevo dire il numero della puntata. Allora, ricominciamo da capo. Allora, rimettiamo il pezzo musicale, facciamo tutto da capo. No. Sulla musica andavamo benissimo, poi come al solito gli scivoloni d'entrata. È chiaro. 19.32, sedicesima puntata dell'Accademia della Brusca, dopo un mese di pausa per cercare di non fare niente. Tutta la programmazione, le puntate ce le abbiamo tutte. Le puntate le abbiamo tutte, abbiamo studiato tantissimo, abbiamo organizzato i prossimi 2 mesi circa, Secchione. Dopodiché si vedrà. Abbiamo trovato tantissimi pezzi musicali, ricercatissimi come sempre. Noi siamo davvero... Renderete conto in questa prossima puntata che sta per iniziare. Se il povero Umberto Eco fosse ancora vivo, scriverebbe una sorta di nome della rosa sulle nostre ricerche musicali. Il nome della cosa. Benissimo, ma allora sapremo anche di cosa parlare quest'oggi. Sì, io volevo farti una domanda. Perché abbiamo messo lo spot di Postal Market? Perché una vera donna, soprattutto nel passato, non può non essere passata da Postal Market. Anche perché da bambina, diciamolo, prime sagome di pisello li abbiamo visti tutti su Postal Market. Questa non la dovevo dire in diretta, questa... scusate, è vero, tagliamo almeno per il podcast. Ma insomma, la taglieremo e chi invece ascolta si è già dimenticato tutto. No, in realtà ci deve essere un po' insomma, di parità, sigla di Postal Market, che era un sollazzo per molti uomini e Postal Market e noi abbiamo deciso insomma così. Ma la vestaglina? Cioè le vestagline che si vendevano su Postal Market? Sai che forse... Erano quelle tipo un avanti dietro con cintolino, fioritissime, proprio da casalinga, ma casalinga del 1803. Da Cesira? Brava! Da Cesira! Che orrore! E tutto questo perché... tanto per insomma farvi capire di cosa stiamo parlando, abbiamo un tema di quelli pesantissimi come al solito, e quindi i dobbiamo grandi pipponi. Sì, i grandi pipponi, ma in realtà guarda, nemmeno più di tanto, secondo me nella scaletta degli argomenti che abbiamo buttato giù, questo è uno dei meno peggio. Sta a vedere che non ci ascolta più nessuno. D'altronde è la brusca, non è la crusca questa, ragazzi. Infatti. La crusca ormai è diventata molto social, risponde su Facebook, su Twitter ai quesiti, e noi invece abbiamo deciso di riprenderci il nostro avamposto puro e duro del fatto che la cultura è di tutti, ma noi ve la spieghiamo male. Ve la spieghiamo male, con delle mattonate, le fittonate, insomma è un po' un programma per masochisti questo. Esatto, bene, bene, bene. Ed è per questo che poi tutto si intervalla a grande musica di merda, come sempre. Per cercare di rendere il peso del macigno un po' tipo tortura medievale, no? Esatto. Quindi... sì, come un bagno caldo, freddo, caldo, freddo. Esatto, caldo, la freddo. Tortura della goccia. Diciamo... Sisifo, che... ecco. Tutto che va a portare il maso, per cui... Perfetto. C'è tutto, inutile. Tutto. Dai, dici un po' di cosa parliamo. Di grande raccordo la grammatica. Grammatica, tutte le varie tipologie di grammatica a confronto. Quindi, voi penserete, la grammatica, quella che ci insegnano a scuola, non solo. Abbiamo la grammatica universale, la grammatica generativa e la grammatica scolastica. Quindi... il nostro universo di grammatiche di cui ci serviamo quotidianamente in maniera inconscia per comunicare internos. Ecco, hai visto. Però... guarda, non lo so, oggi è proprio una giornata strana, perché era da tanto non si faceva la trasmissione. Riprendere oggi è un po' come davvero se non l'avessi mai fatta finora. Mi sento come un po' vergine. E quindi vediamo chi lo indovina, il pezzone. Il pezzone. I made it through the wilderness. Somehow I made it through. Didn't know how lost I was until I found you. I was beat, incomplete. I'd been had. Sì, direi. È un pezzo arcinoto, lo conoscono tutti. Volevo salutare Rinaldo perché a quanto pare ci sta ascoltando. La sesta persona in tutta Italia che ha colto la citazione della signora Cesira. E poi, dopo Rinaldo ne parliamo, perché io sono nata a cavallo del fiume Po, però Cesira era un nome di insomma, casalinga, di Sciura, sì, abbastanza diffuso. La Sciura, sì. Dovrei spiegarmi chi era la Cesira e poi la prossima puntata aggiorneremo i nostri ascoltatori. Allora, Orbene, ti ho fatto uno scherzetto, ripeschiamo la scaletta. Questo è un tema che chi ci ha ascoltati nelle altre puntate, insomma, un pochettino dovrebbe conoscerlo, dovrebbe masticare un po' di definizioni relative alla grammatica, che non è, soprattutto, non è quella che ci insegnano a scuola, quindi quel sistema di regole che dovrebbero appunto regolamentare il gioco di parole, la nostra capacità verbale, la nostra capacità di esprimerci. Ma che brava! Sì, sei rimasta tantissimo. Veramente molto, molto brava, molto professionale. D'altronde, col lavoro che faccio, un mese se non so non l'italiano... ti ha tolto nulla. Se allora, non sai l'italiano, sallo. Sallo l'italiano, sembra quasi un'esortazione. Allora, partiamo. Signore e signori, che cos'è la grammatica? Abbiamo pescato la definizione più aulica che ci sia dalla grammatica, dal vocabolario della Treccani. Il vocabolario, dopo oi. Devoto oi. Questo la dedichiamo al nostro amico Tommaso, il vocabolario oi. Oi. Allora, che cos'è? Dice? La grammatica è, molto generalmente, una rappresentazione sistematica, sentite che roba, di una lingua e dei suoi elementi costitutivi, articolata tradizionalmente in, e qua... Insomma, qui c'è tutto memory delle lezioni, della brusca. Fonologia, dottrina dei suoni di cui è costituita la parola. Io faccio i fischietti, vai tu quindi, fonologia. Morfologia, sintassi e la lessicologia, anche io questa cosa me la dimentico sempre. Sì. È lo studio scientifico del sistema lessicale di una lingua. E alla fine anche l'etimologia, tanto cara anche questa ai nostri nemici della crusca. No, non è vero, se non ci fossero loro non ci saremmo neanche noi. E poi cosa possiamo dire? Che la grammatica, un po' di nozioni storiche. La grammatica è anche quella disciplina considerata nel Medioevo una delle arti del trivio, pensate un po', che ha per oggetto tale rappresentazione. E in passato gli si dava il nome di grammatica ad esempio il corso di studi dei primi tre anni di ginnasio. Questo me l'aveva sempre detto mio nonno. poi insomma, questa parola aveva anticamente un significato un po' più ampio, che quindi se andiamo a pescare nella filosofia, quanta roba, comprendeva anche l'insegnamento dei precetti retorici, di nozioni letterarie, quindi soprattutto durante il periodo cluniacense, dei monaci, durante il Medioevo, e era detta grammatica anche la lingua latina, quindi ancora prima, contrapposta implicitamente alla lingua volgare, quindi al sostrato volgare che si stava diffondendo, perché nel tardo Medioevo lo studio di questa, chiamiamola materia, molto volgarmente, riguardava esclusivamente il latino. Guarda. Quindi questo la grammatica, quella così che... scritta, grammatica punto e basta. Esatto. Perché poi abbiamo anche, come dicevi prima, grammatica generativa e universale. Sì, vogliamo dire prima quella universale? Vada. Scusa, quella generativa, sì, allora a questo punto seguiamo... Facciamo la generativa. Chi è il campione? È sempre lui! Allora, lui c'è sempre. Quando ho fatto il post prima per annunciare su Facebook il fatto che saremo ritornate questa sera, volevo dire che con noi in questa trasmissione faremo ballare anche Chomsky. Non l'ho scritto, ecco, insomma, mi sono frenata un attimo. Il nostro amico Chomsky cosa dice? Il nostro Noam, che la grammatica generativa, anche qui vedete si parla di confluenza, dice appunto che nasce dalla commissione di due componenti: l'intuizione idealistica dell'infinita creatività della lingua, lo sappiamo, no? Una lingua è un sistema ricorsivo infinito, e si ricordi anche Humboldt che diceva che la lingua deve fare un uso infinito di mezzi finiti, quindi una composizione proprio senza limiti. E gli studi compiuti nel nostro secolo sulla teoria matematica della computabilità della ricorsività. Come se fossimo dei computerini, insomma. Quindi noi siamo delle macchine quasi perfette, abbiamo la capacità di fare un uso creativo del linguaggio combinandolo e al tempo stesso il nostro cervello, che utilizza un metodo computazionale più o meno, ci mette un limite a questa creatività e anche un ordine. Meno male. Perché? Esatto. Perché diciamo generativo? Perché anche lì si riferisce alla, non tanto alla produzione concreta di singole frasi, ma proprio all'accezione matematica del verbo. E quindi è proprio il verbo generare che la fa da padrona in questo campo. ha un dispositivo astratto, ma più che altro... no, però questo te lo voglio dire dopo, quando si fa l'universale. No, taglio. Tagliamo qua, vi facciamo sentire un pezzetto. Che dici? Intanto che mi stiamo facendo rivivere il terrore delle interrogazioni al liceo tra latino, grammatica, matematica. No, perché ci sarebbe un sacco di esempi carini da fare sull'uso infinito dei mezzi finiti. Quello magari potrebbe diventare un giochino in futuro. Frasi mai sentite, comunque computabili dalla mente umana. Allora si fa il Kruska contest, andiamo nel Guinness dei primati per la frase più lunga del mondo. Iniziate a scriverci le vostre piccole parti, quindi mandateci anche due principali, le subordinate, quello che vi viene in mente, le attacchiamo tutte e a giugno e vediamo partecipiamo. Che viene fuori. Esatto, si fa la sciarpa ricamata della frase più lunga del mondo. Esatto. Mondo della brusca. Ci è piaciuto questo contest? Sì. Il contestizzare. Abbiamo il logo nuovo. Noi arriviamo così un po' a giochi fatti, ma c'è stata la premiazione, cioè ci sarà la premiazione domenica. Del logo domenica 12 in Polveriera. C'è stata la scelta difficilissima del logo vincitore. Sono arrivati tanti loghi, per cui... No, io vi prego, chiunque ha anche soltanto mandato un disegno, mandato uno spunto, un'idea, venga a vedere il risultato del lavoro domenica 12, perché anche solo a stamparli e quindi a dargli un supporto tangibile, è una bella emozione. Veramente abbiamo in mano dei bellissimi lavori. Abbiamo scelto un logo perché quello dovevamo fare. Però sì, poi tutti gli altri verranno utilizzati perché sono davvero molto belli. Forse questo è stato detto e ridetto in queste però due settimane, ma ribadirlo. Ci sentivamo di ribadire perché sono veramente molto belli. Venite il 12 marzo, domenica, dalle 16.30. Alle 16.30 sì, si farà una trasmissione in diretta, forse la fuga del gatto. La fuga del wombat. Ci sarà la fuga del wombat in diretta da lì, allestiremo lì una regia... Volante. E poi Wombat ci vola. Sarà la premiazione, ci sarà da vedere un po' i materiali che abbiamo stampato, i prototipi dei vari adesivi, poster e quant'altro, maglie, eccetera, eccetera. E quindi venite a fare shopping, brandizzatevi Wombat e gireremo tutti insieme per Firenze con le nostre bellissime magliette. Bene. E questa canzone la dedichiamo al logo, perché lo abbiamo aspettato veramente tantissimo. Tantissimo. Gente del mercato, lo sguardo di un soldato, un sole mio privato, te gonfio il seno perché fa meno male e la marea risale. È così normale, ti rassicura la vita col suo rumore, è bello fermarsi a dire due parole, sorrido perché un sorriso mi dà calore. casa perché non c'era più sorriso in te. Ma la vita va semplicemente come sempre fa, distinto a vivere per me e vivo senza di te. La vita va, la vita va naturalmente come sempre va, le porte aperte mi invitano a entrare, il futuro ha bisogno d'amare. Che vuoi che sia, sia ancora un po' di nostalgia. Saprei mai se pianto. Che vuoi che sia, stretta intorno a me, sole di braccia. Ma con gli altri mai, niente scene mai, salva la mia faccia. E un giorno dirò il tuo nome senza esitare. Che vuoi che sia, che vuoi che sia, se ho ancora un po' di nostalgia. Ma la vita va, va bene o più semplicemente va, l'istinto vive per me che vivo senza di te. La vita va, va bene o meglio solamente va, se non è onesto sprecare il dolore, l'importante è non perdere il cuore. Che vuoi che sia, se ho ancora tanta nostalgia. Pipponi ce n'è già tanti quest'oggi, io quindi, ho azionato lo sfumino. Lo sfumino sul pezzo di mia Martina. Sì, sì, ci stava, dai. Andiamo avanti. Andiamo avanti, quindi abbiamo parlato di, vi abbiamo dato una nozione di grammatica generale da vocabolario, abbiamo parlato della grammatica generativa e ora parliamo della grammatica universale, la GU. Che è il grande scatolone delle grammatiche in realtà, cioè è quello che tutti abbiamo... Mi sarei immaginata lo scatolone proprio tipo... Perché io me lo immagino sempre come uno scatolone con tutti gli strumenti e poi a seconda di che lingua parli prendi la scatolina più piccola che sta dentro. Ma non è poi così assurda, no? Come visualizzazione del... Adesso, secondo me, forse è un esempio chiaro per chi conosce appunto che cos'è la grammatica universale. Perché effettivamente è così, cioè è un sistema... quasi costruito da circuiti la grammatica e ci vuole i musicisti direbbero gli serve il case, quindi gli serve il contenitore per tutti i pedalini e tutti i sintetizzatori. Infatti in alcune lezioni a cui ho assistito davano la grammatica universale come l'hardware, mentre la grammatica generativa, la grammatica mentale, il software. È verissimo, questo lo diceva anche la professoressa Bafile a Ferrara. Ecco, vedi. Un saluto, lo so che ogni tanto ci ascolta, la professoressa Laura. Quindi, raccontiamo un pochettino ai nostri ascoltatori che cos'è la grammatica universale. Dopo questa immagine... Lo scatolone. Allora, la grammatica universale, più che dirvi che cos'è, vi diciamo che cosa fa. Ecco. Si propone di individuare una serie di regole sempre innate che spiegano come bambini, o meglio spiegherebbero, usiamo il condizionale, come bambini acquisiscono una lingua, le lingue anzi, e come imparano a costruire frasi che possiamo considerare valide dal punto di vista grammaticale. La componente nata è stata chiamata grammatica appunto universale e può essere considerata come una teoria di meccanismi appunto innati, cioè una matrice biologica che fornisce un quadro all'interno del quale il famoso scatolone si sviluppa poi la lingua, quindi la lingua cresce. Come ogni sistema contenitivo, diciamo. Vedi che la scatola c'era. Tena lady, praticamente. Come ogni sistema, come dire, innato, però ha dei principi che possono essere considerati, appunto ci servono dal punto di vista scientifico per considerare la grammatica universale una spiegazione astratta, perché non possiamo, come dire, figurarcela, e parziale del programma genetico, quindi tutto il programma genetico, che permette ai bambini di interpretare alcuni eventi come un'esperienza linguistica. E quindi così, che belli i bimbi che fanno queste cose, che poi costituiscono un sistema di regole e di principi sulla base di questa esperienza temporale anche. Sì, sì. Esperienza linguistica in genere è un po' fine questa cosa. Tutto in maniera naturale. Sì. Così naturale che ancora non abbiamo capito proprio come possa funzionare, come tutto questo. Esatto. Che poi avevamo parlato in altre puntate dei bambini selvaggi, li ritireremo fuori. Quelli ogni tanto. Non vi diciamo altro, però. E tutte le lingue condividono alcune proprietà che sono chiamate principi della grammatica universale, che sono di natura psicologica oppure mentale. Tutte le persone individuano delle caratteristiche, o meglio... Tutto quello che gli consente poi di poter dire che ha acquisito un linguaggio, fondamentalmente, non imparato, non appreso, ma acquisito, quindi nell'accezione più completa. Che poi se ci pensiamo appunto... Ci sono dei principi che ricorrono. Eh sì, che semplicemente selezioniamo, quindi dal momento in cui ho una grammatica universale sono possibilmente, cioè posso essere esposto a qualsiasi tipo di lingua, a seconda della lingua alla quale sono esposta, sintonizzo e dico, che ne so, ok, sono un bambino, sto ascoltando una lingua, questa lingua che sto ascoltando è... L'italiano non esige un soggetto, ok, sto ascoltando una lingua che mi permette di omettere il soggetto. Esatto, soggetto nullo, quindi. E vado avanti così per esclusione, questo è un principio che si confà alla lingua che sto ascoltando e via via si affina la confezione, il pacchettino che determina, ok, io sto acquisendo la lingua italiana piuttosto che l'inglese. E se sposti a due lingue differenti invece succede che... So riconoscere per caratteristiche fonetiche piuttosto, insomma, per tutta quella serie di cose che pian piano poi svilupperemo anche nel corso delle puntate, che mi permettono di dire, ok, stamattina con lo zio ascoltavo una lingua che mi impone il soggetto, come per esempio l'inglese, di pomeriggio invece parlavo con la mamma, italiana, una lingua che invece non mi impone quel soggetto, sono... flessibilmente pronto ad accettarle entrambe e a distinguerle nel tempo. Questo è avere una grammatica universale. Esatto, quindi è una delle riprove, anche il bilinguismo lo è. Esatto. Però ci sono tante altre prove che in realtà noi mettiamo in atto quotidianamente, ma non sappiamo che si chiamano così. Eh sì, certo. Quindi si diceva la ricorsività, per esempio, la discretezza. La dipendenza dallo questo che dicevamo ora è un caso di dipendenza dalla struttura. E quindi sono, come si diceva anche prima, la capacità al tempo stesso di creare frasi che sono tutte collegate tra loro e che possono essere infinite. Cioè noi potremmo parlare a diritto praticamente, potremmo combinare elementi. Tipo, facciamo un esempio, tipo... devo dire a Maria che piove e tu aggiungi e mi quindi, hanno detto ecco. Che devo dire a Maria che piove. Esatto. I nostri amici giù al parco mi hanno detto che devo dire a Maria che piove. L'altro ieri in una situazione strana i ragazzi giù al parco mi hanno detto così via si aggiungono mi hanno raccontato che esatto tipo una una canzone di Branduardi. Quella. E quindi questa è la nostra grammatica universale. Quindi se volessimo mettere in ordine queste definizioni che vi abbiamo dato, possiamo dire che prima abbiamo la grammatica universale, la grammatica generativa e successivamente la grammatica storica, se così vogliamo chiamarla, e quella che effettivamente è più scolastica, quella che ci viene insegnata. Sì, infatti, quella che poi appunto ci viene insegnata banalmente quando in realtà abbiamo già acquisito almeno una lingua. Esatto, spesso due. Dare un nome a un sistema, sì, poi nemmeno regolamentare qualcosa. Esatto. Infatti poi dopo magari vedremo anche degli esempi interessanti. Assolutamente, però avete capito, noi siamo degli esserini, niente malo. Capito. Siamo degli esserini. Il nostro cervello è veramente eccezionale. Abbiamo degli esserini veramente, ma veramente. So un strano animale, so un tipo eccezionale. So il re del quartiere, te tengo il potere. Se perdo la pazienza, mi scatto la violenza. Su mio motfucone mi sento un leone e spatroneggio. I just love now, Steve Rimbos can I now be loved too big for you. Io, fortuna che ho un cervello eccezionale, veramente eccezionale, ma la gente mi ritiene un animale, un gran bell'animale. Potete campare, ma non fate migrare. Ma fortuna che ho un cervello eccezionale, veramente eccezionale. Sì, io mangio le orecchie di maccabiale, so il stesso di un maiale. Potete campare, ma non fate migrare. Potete papà, ho dovuto emigrare. Inciso. Quando sto alla partita io rischio la vita. Se mi piace una donna, ci sprano la gonna. Se per caso mi offendo, ti strappo via i denti. Sono un T.U.M. accendo pecendo e spadroneggio. This fuck my sense around. To down, up to down. I love a proxy to you. Eccezionale, veramente eccezionale. Ma la gente mi ritiene un animale, un gran bell'animale. Potete campare, ma non fate migrare. Ma fortuna che ho un cervello eccezionale, veramente eccezionale. Yes, io mangio le orecchie di maccabiale, so il stesso di un maiale. Potete campare, ma non fate migrare. Certo, forse esagerato. D'altronde subito l'influenza di gente dello spessore musicale di Pintosh, di Joe Cocker, di Steve Wonder, di Snella Figgera. Cioè, cambiando discorso, cioè, io sono biondo, no? Cioè, tinto ma biondo. Cioè, il cavallo biondo. Ora, vivendo in periferia, c'è dentro l'Interland, può anche essere molto rischioso. Metti che zombo forte dietro un angolo under un cielo, ragazzi. Allora, ti zomba addosso, ma non ti spappola, ti fa pezzi. Cioè, è come essere un abbino ad Alem. Babbino? Intendo no, abbino con la penna. Abbino slavato, no? Scusa. troppo. Ma la gente ha torto, mi ritiene un animale. A po' forza. Fufu te campa, papparba. Ho dovuto emigrare. Dovevo pure mangiare, no? È quello che chi ha una laurea in lettere si dice tutti i giorni, tu devo pure mangiare, no? Non posso lasciarti solo un istante. Sono terribile. Allora, dopo questa... No, no, no, ci servi. Intanto è arrivato anche una autodate che ci fa pressione, perché tra un po' tocca a lui, che ha una puntatona di 8 Hz, ma bellissima. Tanto noi abbiamo iniziato puntualissime, cosa credi? Che siamo delle ritardatarie? Si sta parlando da fuori, fuori dalla regia, non abbiamo capito. Non sentiamo niente, abbiamo le cuffie, bla bla bla bla. Allora, ecco, è tornato aiuto, se sentite la trasmissione che se ne va, è colpa sua. Ci scrive dei messaggi. Ci fa i pizzini, ci scrive i pizzini. Allora, dai, riprendiamo il discorso. Con massima serietà. Allora, a proposito della grammatica generativa e di quella scolastica, tanto per fare un trade union. Sì. Che cosa possiamo dire? Che ci sono varie considerazioni che ci possono portare, come abbiamo detto prima, a una conclusione, cioè che abbiamo, proprio nel senso di quantità, della grammatica, abbiamo della grammatica della nostra lingua una rappresentazione, cioè abbiamo una rappresentazione mentale, oddio che casino, della grammatica della nostra lingua, una sorta di mappa, ovvero... Perché possiamo dire questa cosa? Sei stata bravissima a dirla così. Non si poteva fare di meglio. So pensiero. Cosa vuoi dire e quindi posso dire sei stata bravissima. Io ho una... come dire... uso la mia grammatica universale. Ma quella era mia. Dove vai? Mi stanno rubando la beveraggio. Ma qui ci danno dei messaggi. Ma che... Si può leggere in diretta? Sì, a questo punto sì, si può. Non c'è termine che traduca la just intonation. Voi come la tradurreste? Vi do una settimana. È uno spoiler per la trasmissione di dopo. Ecco. Terribile, terribile. Guarda qui, si fa pubblicità. Il mio braccio destro. Lui è il mio braccio destro nel lavoro, nel copywriting. E mi manda i pizzini con delle cose terribili. Allora, dopo traduciamo anche just intonation, autodate, non ti preoccupare, faremo anche quello. Si diceva che abbiamo una rappresentazione mentale della nostra della lingua e della nostra grammatica. Perché? Perché conosciamo cose della nostra lingua che nessuno ci ha mai insegnato. E pensateci, è vero, che ci consentono di dare giudizi su frasi mai sentite, distinguendo tra frasi grammaticali e agrammaticali. Con la davanti. E poi il fatto che sappiamo produrre nella nostra lingua una varietà di frasi mai sentite prima, appunto con la ricorsività, quindi che sono nuove non solo per il contenuto ma anche per la loro strutturazione interna. Abbiamo fatto un esempio prima del anteporre a una frase domani piove, dico con Maria che domani piove, eccetera eccetera, non sto andando avanti, sì, perché sennò poi ci si infossa, veramente usate il presente e il presente, sì, potevo usare il passato, era meglio. E questo conferma anche le tesi per cui un bambino non impara una lingua dai propri genitori o dai propri insegnanti, bensì dall'esposizione, anche se con povertà di stimolo. Esattamente, almeno fino a una certa età. E soprattutto conferma che quando andiamo in prima elementare sappiamo già una lingua, per cui puoi studiare che quello si chiama nome e il verbo si coniuga così, è molto più semplice che non partendo da zero. Da zero, quando abbiamo semplicemente, non so, la capacità di articolare suoni con il canale fonatorio, ma non sappiamo minimamente segmentarlo e non sappiamo cosa stiamo dicendo, insomma. Se arriva a scuola a 6 anni, che ha fatto la primina anche a 5, con comunque un linguaggio che è ben chiaro, utilizzato, comprovato. È già acquisito. Totalmente, totalmente. Eh sì, Vogliamo fare qualche esempio di frasi che possono mettere in difficoltà? Anche dare un po' un esempio più pratico di quello che abbiamo detto di finora. Grammaticalità e agrammaticalità. Esatto, per esempio, quando si parla di agrammaticalità, come lo troviamo scritto nei libri? Troviamo questo piccolo asterisco davanti che anticipa la frase, ciò significa che questa frase è agrammaticale, non significa che la frase sia sbagliata, cioè che proprio non è grammaticalmente accettabile. Perciò la frase "a Gino piace di ballare" è una frase agrammaticale, non si può sentire, cioè esatto, non va bene, punto e basta, perché non rispetta gli argomenti di un verbo, piuttosto che insomma quello poi in questo momento una preposizione non semplice non che non c'entra nulla. Mentre a Gino piace ballare è una frase corretta, quindi non presenta l'asterisco. Questa è per esempio la prima coppia che abbiamo. Esatto. Se vogliamo parlare invece di frasi che sono scorrette, però dal punto di vista della grammatica scolastica, nel senso all'esame non le posso dire. Al panificio magari sì, dall'omino che ti vende il pane magari sì, e sono per esempio "a me il vino non mi piace" oppure "a me mi piace la Coca-Cola", che anche merda. Qui ci sarebbe da disquisire. Non è grammaticalmente, dal punto di vista della grammatica scolastica, corretta, però la usiamo perché comunque la nostra percezione grammaticale la regge, ecco, così come regge "ho incontrato Gino e Pino e gli ho parlato di te", sappiamo che è scorretto, però è concordante. Scorretto dal punto di vista della grammatica scolastica, mentre dal punto di vista del "volemo se bene" si può usare, insomma, non esatto. Va bene, però è una cosa che comunque il nostro cervello ancora regge. Esatto, per un è un'allerta che il nostro cervello ci dà, però comunque tutte queste frasi sono comprensibili, cioè a livello proprio di senso un parlante italiano le capisce tutte quante. Perché violano proprio quella che è la grammatica scolastica che è, cioè che è arrivata dopo, esatto, la grammatica vera e propria che è detta l'acquisizione del linguaggio. Esatto, è un altro livello, diciamo, di sentire, nel esatto. senso che appunto ci accorgiamo della agrammaticalità, della scorrettezza in certi casi di alcuni enunciati, pur comprendendone pienamente il significato. Insomma, vogliamo rompere le palle. Ecco, Perché comunque c'è anche da dire che poi noi ci riferiamo sempre alla lingua italiana, quindi facciamo sempre degli esempi sulla lingua italiana che da questo punto di vista è veramente molto difficile, molto particolare, molto tignosa. Come direbbe qualcuno. È più complesso anche rifarsi poi a queste piccole sfumature di grammatica scolastica. La tigna è il mollusco contagioso. Ecco, che schifo, queste cose delle elementari terribili. Perché il problema è l'italiano. L'italiano vero, l'italiano non vero, l'italiano avete capito? Di qua, il problema non è solo la lingua italiana, il problema è proprio anche la... Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Pensa, è a microfoni aperti, non si può ascoltare seriamente, Nenia, no? È un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. L'autoradio nella mano destra e il canarino sopra la finestra. Italia con i tuoi artisti. Con troppa America sui manifesti. Questa è una letteratura. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Pensa. Con l'Italia, buongiorno Maria. Sicuramente non per merito tuo, caro Topo. Malinconia, buongiorno Dio. Sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lo ricordo un po'. Lasciatemi cantare una e lascia entrare Scania, quel famoso pezzo di Ranissimo. Wow. La base sotto. Lasciatemi cantare Se volete che la smettiamo con questo pezzo, basta che ci mandate un tweet twitter.com/radiowombatfi. Ecco, approfittiamo. Brava, brava, sì, approfittiamo. Mail postawombat@insiberia.net e o Facebook radio-wombat-Firenze. Ma soprattutto le mail, scriveteci tante mail, perché sì, sì, abbiamo bisogno di feedback, positivo o negativo che sia, abbiamo bisogno di feedback. Dalle infamate per queste canzoni fino a ai complimenti, al grazie a voi ho superato finalmente l'esame di linguistica all'università Niccolò Cusano. Ma scusa, vogliamo inaugurare, incignare la stagione? Lo facciamo? Lo facciamo? Signori, ricominciata oggi la seconda stagione dell'Accademia della Brusca. Signore e signori, madrina del Varo, ineffabile contessa Serbelloni Mazzanti vien dal mare, grande azionista della società. Una grande giornata. Viva, viva! Viva! Viva! Viva! Viva! Ecco contessa, a lei! Parte da 32 metri la Serbelloni Mazzanti vien dal mare. Capovaro, posso andare? Vadi, contessa, vadi! Ecco, contessa. Un'altra bottiglia? Sì, prego. Riparte da 46 metri la Serbelloni Mazzanti vien dal mare. Capovaro, riposso andare? Rivadi, contessa, ma più centrale. Ah. Oh. Fantozzi questa volta preferì attendere in acqua la conclusione della cerimonia. Capovaro! Riprovo! Ririvadi, contessa, ma un po' più a destra! Qui lo raggiunsero nell'ordine. Sindaco con fascia tricolore. Ministro della Marina Mercantile. 102enne baronessa Filiguelli de Bonchamp, mascotte a vita della società. Tutte le autorità vennero poi furtivamente varate a parte. Finita la riserva di champagne, fu deciso di cambiare il rituale della cerimonia. Taglio di un cavetto metallico che avrebbe messo in moto il meccanismo del varo. Riparte da 76 metri, la Serbelloni Mazzanti vien dal mare. Vadi, vadi, contessa! Taglio! In nome di Dio! Mignolo netto dell'arcivescovo con anello pastorale! Porcaccia di quello! L'inno lo sfumo. Aziono lo sfumino per l'inno italiano. Ve l'abbiamo fatto ascoltare tutto perché... no, è di una meraviglia, proprio. È meraviglioso questo, questo frammento di Fantozzi. Taglio! Il parro, il vesco. Che bello. Vabbè. Porca troppo, troppo bello. Scusa, allora, non mi sono... Abbiamo sfumato tutugno. Tutugno. Per appunto, insomma, mandare qualcosa di più sensato e anche più in tema, perché appunto, se non l'avevate ancora capito, abbiamo ricominciato la seconda stagione dell'Accademia della Brusca. La Nenia sta morendo dalle risate. Allora smettiamola di ridere. Sì, volevo aggiungere. No, facciamo una piccola nozioncina, sì, su quello che abbiamo detto poc'anzi. La scorrettezza, perciò, è una nozione della grammatica intesa in senso normativo, mentre la grammaticalità è una nozione della grammatica ma in senso descrittivo, ok? Quindi lo studio scientifico del linguaggio poi si è rifatto tutto a quello, al tipo descrittivo e non normativo. Quindi tutto lo studio della grammatica generativa universale, Chomsky, non Chomsky, ok, si è basato sulla grammatica descrittiva e non normativa. Normativa è quella della scuola, memi non si dice... Scolastica. Quella più scolastica, che noi esatto. chiamiamo scolastica, chiaramente poi ha tutta una serie di ramificazioni. E ci fermiamo lì. Mentre la precisazione... Che volevamo fare sul grammaticale, che ci è stato detto, che ci hanno fatto il gestino con la mano chiusa, e ci hanno detto, ci hanno fatto capire che cosa significa, ci hanno chiesto che cosa significa grammaticale. E non vuol dire sensato, nel senso... La Nenia prima ha fatto un esempio meraviglioso, cioè... La noce guida il motorino. È... un episodio inverosimile. È inverosimile, però sì, cioè, grammaticalmente è una frase. Anche perché se tu guardi un cartone animato può succedere ed è comunque... E gli unicorni esistono. Sì, perché comunque no? Io ve lo volevo dire. E quindi grammatica scolastica, grammatica universale, grammatica generativa. In questo caso siamo ancora all'interno della grammatica universale. Per farvi fare un po' un riepilogo di quanto abbiamo detto finora, e soprattutto fate voi una prova, cercate, divertitevi nel comporre frasi che possono essere grammaticali ma completamente insensate, come la noce che guida il motorino. Infatti qui poi tra gli esempi ne avevamo messo una carina che era il mattone vuole cantare la Traviata. E lì poi uno si domanda, ma come sceglie i pezzi musicali la Nenia? No, il mattone vuole cantare la Traviata, però ha una doppia interpretazione, perché può essere il mattone in quanto tale, come noi lo conosciamo, oppure stiamo parlando di un cantante pallosio che è stato al festival di, come si chiama, di Sanremo, e in quanto ci fa una pippa grossa come una casa, si dice, vabbè, il mattone, ovvero colui di qui sopra, che è pallosissimo, vuole cantare la Traviata a un festival di musica classica, e questo è... Lo potrebbero dire i nostri amici, quelli famosi della Barcaccia. Oh, che cari, salutiamo, che non cari, so, magari prima o poi ci ascolteranno. Non ci ascolteranno mai, però... Io e Lenia siamo due soprani, per cui dovrebbero fare attenzione. Dovrebbero fare attenzione. Le mattone vogliono cantare. La Traviata, il ruolo della... No. La regina della notte, che loro gli piace tanto. Sì, che vedi, loro gli piace tanto, ragazzi. Vedi che succede poi a parlare di grammatica. Che si diventa dei mattoni. A proposito, e lì scatta la nenitudine. Come siamo. Yeah. sulla stessa mattonella. No, non essere geloso se con gli altri parlo questo. Non essere furioso se con gli altri parlo il rock. Con te, con te, con te, che sei la mia passione. Io parlo, ti parlo del mattone. È stata un'incursione in regia. Ce lo meritiamo. Ecco, noi siamo ancora sulle, diciamo, frequenze streaming, quindi non, come dire, ci possiamo permettere ancora questi piccoli lussi. Quando invece faremo il mega lancio, queste cose non potranno più succedere. Quindi godetevi questa, come dire, questa spontaneità, anche le parolacce. Mamma, è l'ora del pippone? È arrivata l'ora. È l'ora del pippone, un veloce pippone. Velocissimo. Un velocissimo pippone? Ma sei sicura? Prendo fiato. Lo vuoi fare? Ci provo. Vedo Pechnipava. Sia tu moderno. Baseball, Mava. Attenzione. Sto pronto, meno su fil rouge. Attenzione. Attenzione. Allora, ci siamo, è il momento del pippone, volevamo mettervi anche il pezzetto di Giochi Senza Frontiere. È ormai consolidato l'uso della grammatica tradizionale, ovvero questo termine comporta un'eccessiva semplificazione, in quanto contrappone in modo estremamente sbilanciato la grammatica moderna, qualunque cosa questo significa esattamente, tic, quale? Tac, quella dell'ultimo secolo? Tic, tac, a tutta quella tic, precedente, che ha avuto uno sviluppo tic, di più di 2 millenni. Inoltre, il pensiero grammaticale premoderno non è stato uniforme, avendo conosciuto tic, un continuo sviluppo nel tempo ed essendo presente almeno 2 linee di pensiero diverso, una principalmente di tipo induttivo e l'altra principalmente di tipo deduttivo. Tic, tac, tic, allora, tac. Finisco un attimo. Era questo il pippone sulla grammatica scolastica, preceduto dall'arbitro Denis, non mi ricordo cosa, di Giochi Senza Frontiere. Attenzione, tu guarda. Quindi, cosa vi volevamo dire? Semplicemente che nel tempo l'uso della grammatica tradizionale si è, ha preso piede, perché noi parliamo di grammatica e la grammatica nella parla di noi. Testa, e la grammatica parla di noi. Si faccia una domanda e si dia una risposta. Però effettivamente... Marzulla, ci dica! Oddio, Marzulla. Già mi hanno tagliato i capelli, ho perso la forza, adesso mi dice anche Marzullo, veramente, vado. Me ne torno a Fiesole. No, cosa stavamo dicendo? Niente, che la grammatica, quella che noi definiamo come tradizionale, è ormai diventata proprio all'ordine del giorno la definizione per antonomasia di grammatica, cioè nel senso è una materia che si studia tuttora, che ha una storia antichissima, come abbiamo detto prima, 2 millenni di storia, cioè... praticamente è nata nel mondo greco, anzi addirittura delle fondamenta che vengono poi ereditate dalla cultura greca. Non si sa bene che origine avesse, i primi ad utilizzare una grammatica sono stati i greci, ma si suppone che anche prima dei greci ci fosse un sistema particolare. Esatto. Da qualche altra cultura. E poi sono arrivati i romani, che hanno imitato i modelli filosofici greci, ma va. Con pochissimi adattamenti, che plagio. Ma a parte sterminare, che hanno fatto questi romani? Copiato. Ecco. Copiato capitelli, moduli e grammatiche. E quindi cosa è successo? Insomma, che la grammatica è sbarcata anche tra i romani, che hanno imitato i modelli greci e successivamente li hanno perfezionati, semplicemente perché hanno avuto una vita più lunga. Ecco. La tradizione della grammatica, proprio dal punto di vista filosofico, poi è passato, è avanzato con le grammatiche di Prisciano, di Donato, tra il 400 e il 500 d.C., fino ad arrivare a quelle grammatiche dette alessandrine, quindi che prendevano come modello la lingua dei classici, che si sono evolute poi durante il Medioevo. E, per esempio, si sono espanse in Francia, nella zona dell'Île-de-France, quindi siamo proprio in pieno Medioevo, siamo proprio in piena lingua d'oca. E queste grammatiche hanno poi preso qui, finalmente, se così vogliamo dire, il carattere speculativo, ovvero sono diventate delle categorie linguistiche che rispecchiano la realtà. E da qui è arrivata proprio la definizione che noi utilizziamo oggi di grammatica scolastica, quindi una definizione di esperienze e che hanno appunto dato luogo a un sistema che non è né trasparente né troppo coerente, e perché appunto viene insegnato oggi ai bambini a fare l'analisi logica, per esempio in quarta elementare, l'analisi del periodo in quinta elementare. Quindi siamo passati dalla filosofia, dalla grammatica, a in realtà un insegnamento proprio scolastico di regola con cui definire una sorta di comportamento già acquisito, probabilmente quando avevamo... facendo un conto algebrico eravamo meno 3, quindi avevamo sei mesi al sesto mese di gestazione praticamente. Esatto. Questo è a questo punto siamo già un po' in ritardo di un minuto. Ma facciamo, com'è che ero convinta velocissima, che l'agenda della settimana, allora la concentriamo sull'evento che abbiamo già anticipato prima. Esatto. Quindi 12 marzo domenica, mercatino alla Polveriera con il nostro banchino, veniteci a conoscere, a vedere lo sviluppo cartaceo e non dei loghi che sono arrivati. Venite magari a farci un saluto anche durante la diretta, esatto, della fuga del Wombat, che verrà trasmessa straordinariamente dalla Polveriera. Venite a trovarci, ci sarà un aperitivo mangereccio sul tardi, quindi appuntamento alle 16.30 alla fuga del Wombat, alle 19 circa aperitivo mangereccio con premiazione del vincitore che ha fatto il logo prescelto. Esatto, e un po' di DJ set. E DJ set, ci bello sarà insomma da stare insieme, divertirci in un posto molto carino, molto ospitale. Perché Wombat vi veste, vi nutre, vi abbeverà e vi fa pure ballare. E vi scarabocchia anche qualche muretto. Ma solo con i pennarellini. Con i pennarellini indelebili. No, delebili. Bene, questo è quanto. E a questo punto chiudiamo con un pezzo serio. Con un pezzo serio, perché ieri è stata la festa, la giornata della donna, chiamiamola così, preferisco. Citiamo pazienza, marzo l'8, l'8 marzo. E soprattutto l'8, perché comunque ieri, a differenza di altre giornate della donna, è stata una forse un po' più produttiva dal punto di vista anche politico, di rivendicazione di varie cose che andrebbero sì ribadite più spesso, però ci sono stati dei movimenti anche come le degenerate che comunque hanno fatto qualcosa di più coerente dal esatto, punto di vista che del dovremmo, genere sì, che... ricordarci un pochino più spesso, facciamo anche tutti i giorni e ecco. Poi proprio bello il gioco linguistico l'8 marzo senza apostrofo. Dobbiamo ringraziare Andrea Pazienza e i suoi fumetti sì. Bellissimi. Bene, allora un saluto, salutiamo da diciamo con John Bites. Sì, un sì, salutino sì, di quelli certo, seri. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltate e ci risentiamo giovedì prossimo alle 7:30. Sette e mezzo. Ciao. E ci vediamo domenica. A domenica. Ciao. Ciao. Ah, tra l'altro la puntata adesso andrà in replica sabato mattina e domenica pomeriggio. Se andate sul sito, guardate nella paginettina del palinsesto, trovate maggiori indicazioni. Ciao. Evviva! Evviva! Ciao ciao! Perfume, Donna, don't forget you're another. Madonna, you're a face in the crowd. Try to live up to your social position. People watching your every move.